Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che mette al centro dell'attenzione la vita, molto spesso le sofferenze e le prospettive degli animali non umani. Siamo convinti che un futuro di giustizia sia possibile per gli abitanti del pianeta Terra se la specie umana e gli altri viventi sapranno trovare un nuovo equilibrio, superando quell'antropocentrismo che ha caratterizzato gli ultimi secoli della storia umana e che ci ha portato sull'orlo di un vulcano. È un vulcano questo che minaccia la specie umana di estinzione, secondo un destino che prospetta grandi difficoltà e sofferenze nel collasso ecologico, oltre che sociale, del pianeta. Ma noi abbiamo fiducia nella possibilità di sterzare rispetto a un percorso che al momento sembra scritto e crediamo che sentirsi esseri terrestri tra altri esseri terrestri sia il primo passo da fare per imboccare la direzione giusta, giusta in tutti i sensi. Siete all'ascolto della puntata numero 666 e oggi parleremo di animali domestici, delle abilità dei gatti, del vile mercato di animali esotici, di tartarughe e uccelli sconosciuti. Gabriele Palloni, come al solito, ci regalerà una ricetta a partire dalle notizie della puntata, che avrà una colonna sonora studiata ad hoc dal nostro Gianluca Masala. Cominciamo con una notizia curiosa e in controtendenza. Tre specie di uccelli finora sconosciute sono state individuate nella piccola isola indonesiana di Wakatobi. E proprio Wakatobi è il nome scelto per identificare un nuovo uccello tropicale, simile al colibrì. A battezzare, diciamo così, l'animale sono stati i ricercatori del Trinity College di Dublino e dell'Università Haluoleo di Sulawesi, in Indonesia. Gli studi condotti sul posto hanno permesso anche di appurare che la nettarina ventre giallo e la nettarina ametista, finora considerate un'unica specie, rappresentano in realtà lignaggi geneticamente distinti. Sono dunque tre, con la nettarina Wakatobi, le specie che vanno ad aggiungersi ad una lista degli animali viventi e conosciuti che in verità ogni giorno perde molti tasselli. È l'emergenza biodiversità che ben conosciamo. Sono interessanti i commenti dei responsabili del team di ricerca che ha lavorato in Indonesia. È sorprendente, ha detto Fiona Omar Haig, che in questa regione sia ancora possibile individuare specie sconosciute. E David Kelly del Trinity College, il ritrovamento evidenzia come la biodiversità sia davvero ovunque. È incredibile pensare che mentre molte specie rischiano l'estinzione, ci sono ancora tanti animali che nemmeno conosciamo. La Terra, con i suoi abitanti, aggiungiamo noi, è un'infinita fonte di sorprese. Peccato che non riusciamo, almeno nella nostra parte di mondo, ad affrontare con spirito di meraviglia e non di consumo, di controllo, di sopraffazione, tutto ciò che via via riusciamo a scoprire o a capire. Recuerdos de una noche venturosa que vuelve en mi alma a florecer. Recuerdos que se fueron con el tiempo, presiento que reviven otra vez. Igual que aquella noche tan lejana, es esa de mi amarga soledad. La luna sobre el cielo azul me alumbra, como otra blanca luna que ya nunca veré más. Si quieres olvidarme, déjame, dijiste la mañana que partí. Tú sabes que te quiero, te queré. e tu su sei cariño che te di, a nadie quise tanto come a ti, mi amante ti ofrecí mi corazón, yo sé que para siempre te ha perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión, así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor, que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de otro amor, comprendes el porqué de mi partir, comprendes mi amargura en el adiós, acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo. Noche tan lejana, es esta de mi amarga soledad. La luna sobre el cielo azul me alumbra, como otra blanca luna que ya nunca veré más. Si quieres olvidarme, déjame, dijiste la mañana que partí. Sabes que te quiero, te queré, y tú sos el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti, mi amante te ofrecí mi corazón. Yo sé que para siempre te ha perdido mi alma, yo que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor, que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de otro amor. Comprendes el porqué de mi partir, comprendes mi amargura en el adiós. Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo. Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo. La notizia delle 3 nuove specie di uccelli individuate in Indonesia ci porta direttamente nel mondo degli animali esotici. In quel caso, in Indonesia liberi e, si spera, indisturbati. Ben diversa è la situazione del mercato degli animali esotici, una piaga che continua a colpire milioni di individui, costringendoli a sofferenze indicibili. La buona notizia è che nei giorni scorsi è entrato in vigore in Italia il divieto di importare animali selvatici esotici catturati in natura. È il divieto previsto dalla recente legge 135. In realtà c'è un'eccezione, prevista dal decreto firmato poco tempo fa dai ministri Speranza e Cingolani, quello che ha dato attuazione alla norma, e si tratta di 6 specie di pesci che potranno continuare ad essere commerciate, anche se selvatiche, viste le indicazioni dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale. La Lega Antivivisezione, LAV, la maggiore organizzazione animalista italiana, dà una valutazione positiva della nuova normativa. Questo provvedimento, spiega l'associazione in una nota, ha evitato un infinito elenco di eccezioni rispetto al divieto. Un elenco che avrebbe compreso, fra le altre, tutte le specie di pesci, di anfibi, di rettili, ovvero il 95% delle specie fino a ieri ingabbiate in natura per negozi e commercianti italiani. La LAV ha provato a fare una conta dei salvati. 1.200.000 animali, cioè il numero di vite che ogni anno, ha detto il presidente della LAV, Gianluca Felicetti, sono state prelevate a forza dalle foreste di paesi tropicali o da ambienti naturali africani e portate in Italia in gabbie, vaschette e teche per essere trasformati in innaturali animali, cosiddetti da compagnia. Secondo Felicetti è stato possibile avere questa nuova normativa di tutela grazie alla recente modifica della Carta Costituzionale, con l'inserimento, appunto, della tutela degli animali all'articolo 9. Four and 20 years ago, we're coming to this life. The son of a woman and a man who lived in strife. He was tired of being poor, and he wasn't into selling door to door. And he worked like the devil to be different kind of poverty now upsets me so. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? Morning comes the sunrise and I'm driven to my bed. I see that it is empty and there's devils in my head. I embrace the many-colored beast. I grow weary of the torment. Can there be no peace? And I find myself just wishing that my life would simply cease. Sempre in tema di animali esotici, va segnalata la presa di posizione di una deputata leghista, Tiziana Nisini, che sembra andare in direzione opposta rispetto alla strada indicata dalla LAV. Mentre l'associazione animalista gioisce per i divieti di importazione di animali catturati in natura, l'onorevole Nisini porta il suo saluto a EMAF, esotici ma familiari, una rassegna che ha iniziato il suo tour a Verona in occasione di Esotica Pet Show e che poi toccherà altri centri nella penisola. Nisini in questa occasione ha emesso un comunicato per rendere nota la sua presenza alla fiera, dove non ha esitato a mettere in gioco gli interessi economici. Ho seguito l'associazione fin dalla nascita, ha spiegato Nisini, per l'importanza del settore che coinvolge milioni di appassionati e migliaia di aziende e professionisti. Basti pensare, dice la deputata leghista, che gli animali da compagnia non convenzionali presenti nelle famiglie italiane sono oltre 47 milioni e che il fatturato complessivo del settore sfiora i 5 miliardi di euro. Nisini ha anche promesso una legge quadro per la disciplina del settore, un progetto che le associazioni animaliste considerano probabilmente una minaccia più che una promessa e che quindi seguiranno certamente da vicino. Gli animali esotici domestici sono per definizione l'esito di un trasferimento forzoso e speriamo davvero che sia un fenomeno in via di estinzione. Ben diversa è invece la questione degli animali domestici tradizionali, cani e gatti in testa. Una nuova ricerca conferma una tendenza in atto. La pandemia da coronavirus ha accresciuto il numero degli animali presenti nelle case degli italiani. Secondo l'indagine condotta da YouGov per conto di Reflay, l'app per l'abbonamento a riviste quotidiane digitali, a partire dal 2020 un italiano su quattro ha scelto di iniziare a prendersi cura di un animale, proprio a causa della maggiore permanenza a casa e di un bisogno più pressante del solito di compagnia. Secondo i dati raccolti da YouGov, per il 35% degli intervistati la pandemia è stato il fattore decisivo per l'acquisto, e qui si specifica proprio che si tratta di un acquisto di animali. Il 39% ha dichiarato di aver cercato la compagnia di un animale domestico per alleviare il senso di solitudine tipico del periodo pandemico. Il 37% perché ha pensato che trascorrere più tempo a casa o lavorare da casa avrebbe reso più semplice la convivenza e la cura degli animali. Il 29% pare che abbia deciso di dedicarsi alle cure di un animale domestico per fuggire dalle preoccupazioni quotidiane. E infine un 25% ha pensato che avere un cucciolo in casa è un buon viatico per allontanare l'ansia. È probabile che ciascuno di noi, se convive con un animale, si riconosca in una o più di queste risposte, vista la varietà e la complessità delle relazioni che è possibile intessere con un animale domestico. Già, ma quale animale? In testa alle preferenze, secondo questa inchiesta, è il cane, presente nel 43% dei casi, seguito ovviamente dal gatto, 39%. E poi via via, ecco, pesci, 12%, uccelli, 10%, criceti, cave, conigli, 6%, rettili, 4%. La ricerca ha riportato questi dati con fredda precisione statistica, ma per noi è doveroso notare come pesci, uccelli, criceti, cavie, conigli, rettili, più che compagni di vita, siano da considerare dei prigionieri, viste le loro attitudini e i loro ambienti di vita consueti. C'è un altro elemento che si fa notare in questa inchiesta. Sempre stando alle risposte date ai questionari somministrati dai ricercatori, pare che gli interpellati abbiano sempre meno tempo da dedicare ai loro ospiti e che addirittura il 92% dei neoproprietari si dichiara rammaricato per non essersi documentato a sufficienza prima di accogliere l'animale prescelto in casa. Insomma, fra animali prigionieri più che compagni, tempo che manca e scelte più consumistiche che consapevoli, la mesta verità è che nell'insieme siamo ancora lontani da un rapporto serio, rispettoso e davvero libero con gli altri animali. They slip the wall, they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. I gatti, dicevamo, sono insediati in milioni di case e non v'è chi non ne ammiri l'eleganza, il senso della misura, la capacità di godersi la vita. Non sorprende allora che si continui a studiarli, anche sul piano etologico, per tentare di capirne i segreti, anche se alle volte i risultati delle ricerche, cosiddette scientifiche, sembrano essere poco più che conferme ufficiali di ciò che già sappiamo. In questo caso la notizia battuta dalle agenzie di stampa riporta le conclusioni di una indagine condotta da un gruppo di ricercatori con il contributo dell'Università di Bordeaux. Ebbene, secondo gli studiosi, i gatti sono in grado di riconoscere la voce del padrone e di distinguerla rispetto al richiamo di un estraneo. Ma questa è l'esperienza di chiunque conviva davvero con un gatto. Ora ne abbiamo la conferma attraverso un esperimento che ha coinvolto 16 animali esposti a registrazioni vocali dei proprietari e di altre persone. I ricercatori sostengono di avere scoperto che le voci dei familiari provocano reazioni distinte negli animali rispetto a quando i gatti vengono sottoposti all'ascolto di vocalizzazioni estranee. In particolare, 10 dei 16 gatti hanno mostrato risposte molto eloquenti rispetto alla voce del proprietario, ossia movimenti della coda, delle orecchie o la cessazione improvvisa del gesto di pulirsi, atteggiamenti che non sono stati osservati in caso di voci di altre persone. Insomma, abbiamo la conferma che i gatti ci capiscono benissimo e non a caso sono in grado, pressoché regolarmente, di manovrarci a loro piacimento. A proposito di comunicazione, all'interno delle specie e fra specie diverse ci sono anche le tartarughe. Sì, parlano anche loro, emettono suoni. E quanto sostiene uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications condotto dai ricercatori dell'Università di Zurigo. Secondo questa ricerca, le tartarughe, ma anche le altre specie considerate, in tutto 53, possono produrre un repertorio acustico molto vario, dai cinguettii a suoni tonali complessi. Stando a quanto emerso dalle analisi condotte, i ricercatori sono arrivati alla conclusione che le comunicazioni acustiche potrebbero aver avuto un'origine comune per tutti i vertebrati che respirano con il naso, e questa origine risalirebbe a circa 407 milioni di anni fa. Lo scorso 1 novembre è stato celebrato il Vegan Day e si è presentata quindi l'occasione per fare il punto su una scelta alimentare che può avere motivazioni diverse. La nostra di motivazioni, ovviamente, è legata a una precisa visione del mondo e della vita, all'idea cioè che tutte le vite siano degne di essere vissute e che quindi non abbiamo diritto di sopprimerne alcune per il solo scopo di nutrirsi, visto come specie umana che possiamo farne a meno. Ma quante sono le persone che si nutrono nel rispetto pieno degli animali? Secondo i dati più recenti dell'Eurispes, una società che ogni anno nel suo rapporto sull'Italia stima anche le abitudini alimentari, il 5,4% degli italiani dichiara di aver intrapreso la scelta vegetariana, che come sappiamo è un abbandono parziale delle proteine animali. Quanto alla scelta vegana, è quella dichiarata dall'1,3% degli intervistati durante l'indagine. Proiettando questa percentuale sulla popolazione nazionale, si arriva a circa 700-800.000 persone. Sono dati in verità da valutare con cautela per le difficoltà di un rilevamento del genere e perché, fra l'altro, non è detto che a tutti sia chiara la distinzione fra alimentazione vegana e alimentazione vegetariana e quindi le risposte raccolte dai ricercatori possono non coincidere con la realtà dei fatti. Quel che è certo è che sono in crescita i cosiddetti alimenti per vegani, una categoria commerciale che sta facendo la fortuna dei supermercati. Ma anche questo è un dato da valutare con l'attenzione di prima, se non di più. Non fosse altro perché si può essere vegani, molti lo sono, senza ricorrere a simili alimenti, ma attingendo semplicemente dall'enorme ricettario disponibile per pietanze su base esclusivamente vegetale. E se poi qualcuno volesse togliersi uno sfizio, o meglio, alzare il livello di qualità della propria cucina, ecco che c'è la possibilità di attingere dal libro del nostro Gabriele Palloni, Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. E Gabriele, come tutte le settimane, si cimenta oggi in una nuova ricetta, legata, come consuetudine, a uno dei temi trattati durante questa puntata. Sentiamo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La ricetta di oggi arriva direttamente dall'Indonesia, la salsa satè, un condimento cremoso dal sapore agrodolce e dal profumo esotico. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 ml di crema di cocco, 2 spicchi di aglio, 120 g di burro di arachidi, un cucchiaio di olio di cocco, un cucchiaino di pasta di tamarindo, un peperoncino rosso fresco, 2 cucchiai di salsa di soia, un grosso scalogno, il succo di un lime, un cucchiaino di zucchero di cocco e del sale. Pulite lo scalogno e affettatelo. Fatelo scottare in una casseruola con poca acqua e quando questa sarà evaporata aggiungete l'olio di cocco, il peperoncino tagliato a pezzetti, l'aglio triticato e fate soffriggere per qualche minuto. Aggiungete il burro di arachidi e la pasta di tamarindo stemperandola con la crema di cocco. Unite il resto degli ingredienti e mescolando fate ritirare per pochi minuti aggiustando di sale solo se necessario. Togliete dal fuoco e versate il tutto nel bicchiere di un mixer. Lavorate bene con il frullatore ad immersione fino a quando la salsa non assumerà una consistenza vellutata e densa. Servite la salsa con spiedini di verdure, tofu saltato o straccetti di seitan. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Valentina Reggioli, Valentina Baronti, Anna Granata, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni, Francesco Panier, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.